si dicea, ma chi dicea così? Il misero mio core. Che forse il core parlar può senza labbro. Oh, qual gran pena che amar chi non intende. Ma tu che d'uomo sai, già il gran vanto otteresti, spiegami se felice oppure infausta bella sorte di sposa. Or via, caro Niceno, parla! Pur senti quel labbro, quell'occhio e quel bel sensi colorito non saranno più tuoi ma del marito. Adesso la comprendo. Dario, sposa mi brama per tormi ciò che è mio. Ma sono accorta la mia parte anch'io. Or tu, caro Niceno, abbandona gli studi, ch'io per custode ogni or ti voglio al fianco. La tua voce è un incanto e può trarmi a sua voglia ove desia. Più resister non può l'anima mia.